Canto quinto della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto quinto. Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo, che men luogo cinghia, e tanto più dolor che pugni a guaio. Stavvimi nos, orribilmente ringhia! Esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo ch'avvinghia. Dico che quando l'anima malnata gli vien dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual luogo d'inferno è da essa. Cignesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono e odono e poi son giù volte. «O tu che vieni al doloroso ospizio», disse Minos a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto ufizio, «guarda com'entri e di cui tu ti fide, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare». E il duca mio a lui, «perché pur gride non impedir lo suo fatale andare? Vuolsi così, colà dove si puote, ciò che si vuole, e più non dimandare». Ora incominciano le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto là, dove molto pianto mi percuote. Io venni in luogo d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal, che mai non resta, mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto e il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi ch'a così fatto tormento sono dannati peccator carnali che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua, di là, di giù, di su li mena. Nulla speranza li conforta mai, nonché di posa, ma di minor pena. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aer di sé lunga riga, così vid'io venir traendo guai, ombre portate dalla detta briga. Perché io dissi, «Maestro, chi son quelle genti che l'aer nero si gastiga?» «La prima di color di cui novelle tu vuoi saper», mi disse quegli all'otta, «fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fu sì rotta che libito felicito in sua legge per torre il biasmo in che era condotta. È l'Ese Miramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa. Tenne la terra che il soldan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo. Poi è Cleopatra lussuriosa. E le navidi, per cui tanto reo tempo si volse, e vidi il grande Achille che con amore al fine combatteo. Vidi Paris, Tristano, e più di mille ombre mostrommi e nominolle a dito, ch'amor di nostra vita dipartille. Poscia che ebbi il mio dottor udito nomar le donne antiche e i cavalieri, pietà mi vinse e fui quasi smarrito. Io cominciai, poeta, volentieri parlerei a quei duo che insieme vanno e paion sì al vento esser leggeri. Ed ei a me, vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li prega, per quell'amor che i mena, e quei verranno. Sì tosto come il vento noi dipiega, mossi la voce: o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe, dal disio chiamate, con l'ali aperte e ferme, al dolce nido vengon per aere, dal voler portate, cotali uscir della schiera ove dido, venendo a noi per l'aere maligno, si forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aer perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui per la tua pace, da c'hai pietà del nostro mal perverso. Di quel ch'udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, si tace. Siede la terra, dove nata fui, sulla marina dove il po' discende, per aver pace co' seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte. Da ch'io intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi, cominciai: o lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io, e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo de dolci sospiri, a che e come concedette amore che conoscesti dubbiosi desiri? Ed ella a me: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Ma se a conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggevamo un giorno, per diletto, di Lancillotto, come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirto questo disse, l'altro piangeva sì che di pietade io venni meno come s'io morisse, e caddi come corpo morto cade. Fine del canto quinto.